l'ultima sposa di questo paese. In realtà dietro le spoglie, sotto le spoglie di questo personaggio si nasconde un atteggiamento, un'idea di mondo, cioè la scienza. Viviana è una donna scienziata, una ricercatrice, una che vuole chiedere e trovare il perché delle cose. A Palmira, che è un luogo misterioso e anche un luogo molto enigmatico, per non dire magico, i perché non ci sono. Comunque non li può intercettare attraverso le coordinate della scienza. Ti devi convertire al mito per conoscere i perché di Palmira. Altra scrittrice finalista al Campiello, Federica Manzon, con Di fame e di sventura, pubblicato da Mondadori. Protagonista Tommaso, un ragazzino sfortunato dalla nascita, come ci racconta l'autrice. Lui è un bambino che nasce con grandi presagi di sventura, perché non saprà mai chi è suo padre, continuerà a immaginarselo per tutta la vita. La madre muore dandolo alla luce e lui rimane solo con questa nonna che lo ama e lo adora, però non è poi così abile nel manifestare i propri sentimenti. E si porta dietro, in realtà un po' come tutti gli eroi secondo me, un presagio molto negativo, che è la maledizione che accompagna la vita di sua nonna e che si ripeterà di generazione in generazione. E dall'altro lato però anche un dono che lo distingue da tutti i suoi coetanei, che è quello di saper leggere nel cuore degli altri, e sarà poi questo dono che gli porterà fortuna. E infatti c'è proprio un brano del romanzo che avevo segnato, in cui praticamente la nonna ha portato questo bambino da una maga, no, per vedere un po' qual è il segno di sventura, insomma, che c'è sulla sua testa. E tu scrivi nel romanzo: fai dire alla maga: non è un bambino come gli altri, è nato nell'ora degli infelici. Tutti i figli di quell'ora del giorno più caldo hanno un dono, sanno leggere il cuore degli altri e il tempo futuro. Che cos'è questo dono poi che questo ragazzino avrà? Ma è un dono che da un lato sa di destino già scritto, però non è un destino extraterreno determinato da qualche divinità esterna, ma è proprio un destino umanissimo che lui stesso si determina, un dono che lui è convinto e si convince di avere, ma poi non si sa davvero bene se ce l'ha o è la sua convinzione che lo porta ad averlo. Lui stesso, quando alla narratrice della storia spiegherà il motivo del suo successo, dirà: ma in fondo è perché io guardo le stelle e sento mio padre che mi parla dalle stelle. E in fondo è vero, per lui è così ed è questa poi anche la sua forza. Scopriremo solo più tardi chi fra questi 5 finalisti avrà vinto il Campiello. Un vincitore però c'è già, anzi una vincitrice. È la giovanissima Viola Di Grado, che con 70 acrilico 30 lana, pubblicato da EO, si è aggiudicata il Campiello opera prima. La protagonista è Camelia, una ragazza che vive a Leeds, in Inghilterra, con la madre. La madre è caduta in depressione dopo che il marito è morto in un incidente stradale ed è stato trovato in auto in compagnia di un'altra donna. Ma sentiamo dall'autrice chi è Camelia. Camelia, la sua storia, la sua intera vita, in un certo senso è precipitata dentro un buco. Lei e la madre non parlano più, si comunicano attraverso degli sguardi, vivono in questa casa lugubre e silenziosa in una città, Leeds, dove l'inverno non finisce mai. Camelia ha subito un trauma che l'ha portata in questo, appunto, in questo buco al di fuori del al di là del tempo e dello spazio. E dopo questo trauma ha seguito la madre in questo silenzio. Ma non è passiva come la madre, nel senso che lei costantemente si ribella e cerca di uscire da questa condizione di silenzio, di mancanza di parole e di significati. Si ribella in modi molto strani, nel senso che un giorno trova questi vestiti deformi, mutilati, nel cassonetto fuori da casa sua, e da quel momento comincia a indossarli. Quindi masochisticamente questa è la sua ribellione a un'identità, quella del mondo fuori da casa sua, da cui si sente esclusa praticamente. Il trauma che ha subito Camelia, che ha subito anche sua madre, è la morte del padre di Camelia, che tradiva tra l'altro sua madre, una cosa che si capisce insomma fin subito dall'inizio del libro. Che impatto ha avuto questo episodio soprattutto nella vita della madre, che ormai sembra non vivere? La madre era una flautista ed era anche bellissima. Dopo questo trauma, pian piano smette di parlare, come se fosse una fase necessaria del ciclo vitale. Le parole scompaiono da quella casa e Camelia, per amore della madre, anche lei smette di parlare. E da qui comincia questo strano alfabeto di sguardi che si scambiano. Inoltre, la madre sviluppa questa ossessione, che è quella di fotografare buchi. Fotografa con la sua Polaroid tutti i buchi che incontra a casa, e quindi buchi nelle tende, nei tavoli, anche nei vestiti. Ed è tutto per questa puntata del Cacciatore di Libri dedicata al Premio Campiello. Prima di chiudere vi segnalo che martedì 6 settembre sarà in edicola con Il Sole 24 Ore Q&A, Misura il tuo sapere, dedicato alla letteratura, un piccolo volume di domande e risposte che vi permetterà di testare la vostra conoscenza in campo letterario. Anche per oggi è tutto, un saluto da Alessandra Tedesco.